Due guerrieri si sono l'altro scagliati, le armi hanno tinto. L'aria di sangue e di bagliori, questi giochi, questi strepiti sono i clamori. L'aria di sangue e di bagliori, questi giochi, questi strepiti sono i clamori. Una giovinezza in preda all'amore appena nato. Le spade si sono spezzate con la nostra giovinezza, mia cara. Le spade si sono spezzate con la nostra giovinezza, mia cara. Due guerrieri si sono l'altro scagliati.